GR24, il sole 24 ore. Bossi, nessun passo indietro sui ministeri, per il governo oggi doppia prova in Parlamento. L'antitrust senza liberalizzazioni, economia compromessa, intervista col presidente Catricalà. Omicidio di Melania, indagato a piede libero il marito. L'Inter tratta con Gasperini e alla fine Villas-Boas va al Chelsea. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque ancora una volta la politica, in una giornata piuttosto impegnativa per il governo, alle prese da una parte con la fiducia sul decreto sviluppo e dall'altra con l'approdo di Berlusconi in Parlamento al Senato per la verifica di governo. Ci colleghiamo in diretta con Elisabetta Fiorito per fare il punto sulle ultime dichiarazioni, soprattutto per parte leghista. Elisabetta. Sì, buongiorno. Di nuovo la Lega che minaccia il governo. Per Umberto Bossi, Berlusconi sarà il candidato premier del centrodestra nel 2013 solo se farà le cose che gli abbiamo chiesto, e gli abbiamo fatto uno scadenzario. Il problema sono soprattutto i ministeri al nord. Bossi glissa sull'accordo di questa notte tra PDL e Lega, che prevede il trasferimento di soli uffici di rappresentanza. Nessun passo indietro, ma uno alla volta, un passo alla volta, quindi dice il senatore, e si parla di due dipartimenti, probabilmente a Milano e a Monza, concessi dal sindaco di Roma Gianni Alemanno durante il colloquio telefonico di questa notte. L'accordo dovrebbe dare il via stasera, dopo la fiducia al decreto sviluppo e dopo l'intervento del premier Silvio Berlusconi al Senato, ad un ordine del giorno per ribadire lo status di Roma capitale, dando però la facoltà al governo di istituire sedi di rappresentanza operative in altre aree del territorio senza oneri a carico dello Stato. Ma Alemanno vuole vederci chiaro: se la Lega continua a raccogliere firme per una legge di iniziativa popolare, è chiaro, dice il sindaco di Roma, che confligge con l'ordine del giorno. C'è poi la risposta della Lega al Quirinale sulla Libia: quando finiscono i soldi finiscono le guerre. Maroni Delfino, sono ancora giovane, risponde poi Bossi. E infine la legge elettorale: il senatore è pronto a discuterne con l'opposizione, ma dal PD Dario Franceschini risponde: non crediamo a Bossi. E per il momento qui dalla Camera è tutto, voi studio. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, ma noi in realtà rimaniamo alla Camera per il voto sul decreto sviluppo, il voto di fiducia. Sentiamo come stanno andando le cose da Andrea Viali. Andrea. Sì, Simone, è atteso tra meno di mezz'ora il risultato di questo voto. È la 44esima volta che il governo chiede la fiducia in Parlamento in questa legislatura. Tra le varie misure previste dal decreto sviluppo, lo ricordiamo, figurano i bonus per gli investimenti al sud, il credito di imposta sul lavoro sempre nel mezzogiorno, i paletti sulle ipoteche e sugli espropri da parte del fisco. Con il maxi emendamento sul quale ieri il governo ha chiesto la fiducia sono invece saltate alcune norme introdotte in commissione sulla stabilizzazione dei precari, i precari che stanno protestando all'esterno della Camera. La maggioranza naturalmente difende il provvedimento e critica invece l'opposizione. Sentiamo Donadi dell'Italia dei Valori. Questo governo non ha purtroppo una politica economica, questo decreto di sviluppo ha soltanto il nome, perché per il resto non sviluppa niente, tantomeno l'economia. Parlano di una riforma fiscale a costo zero e quindi è una presa in giro. Insomma, se vogliamo davvero rilanciare l'economia del paese, prima se ne vanno a casa meglio è. Superato il voto di fiducia, nel tardo pomeriggio è atteso invece il voto definitivo da parte della Camera sul decreto sviluppo, che poi passerà all'esame del Senato. Per ora è tutto, Simone. Grazie ad Andrea Viali. E dal decreto sviluppo è stata cancellata la norma che prevedeva l'ingresso nelle graduatorie per insegnare nella scuola pubblica dei laureati in scienze della formazione. 20.000 persone abilitate alla professione, ma che restano nei fatti senza la possibilità di ottenere una cattedra. Marcello Pacifico del sindacato docenti precari ANIEF. Era registrato un'unanime volontà da parte di tutte le forze parlamentari per sanare una questione che riguardava la disparità di trattamento tra docenti che avevano seguito lo stesso percorso a numero chiuso, sono più di 20.000, e finalmente sembrava che il Parlamento avesse registrato questa volontà e volesse ripristinare questo diritto. E invece è stato stracciato il provvedimento dal maxi emendamento del governo. Basti pensare che su 1500 emendamenti presentati sul decreto sviluppo, 500 insomma erano stati dichiarati inammissibili. Sui 1000 dichiarati ammissibili c'era, questo era l'unico emendamento stralciato che aveva tra l'altro presentato da tutte le forze politiche. Quindi il Parlamento si era espresso chiaramente e inspiegabilmente da parte del governo non è stato recepito nel testo licenziato dalle commissioni parlamentari quanto già stabilito. Adesso cosa farete? Sicuramente noi a questo punto dobbiamo ricorrere alla magistratura, anche per denunciare, anche alla magistratura, diciamo alla Corte dei Conti, per denunciare un danno erariale che ha subito lo Stato, perché lo Stato comunque ha finanziato questi corsi, lo Stato italiano a numero chiuso. Allora, noi veniamo adesso all'economia, rimaniamo nell'ambito dell'economia, però per parlare d'altro, per parlare delle crisi del debito europeo. Sono arrivati alcuni segnali questa mattina, come per esempio l'indice ZEO, che misura la fiducia degli investitori tedeschi, che è precipitato a giugno ai minimi di 2 anni e mezzo, livelli che non si vedevano dal gennaio 2009, quindi in piena crisi, segnando meno 9 punti dai 3,1 di maggio. Secondo l'istituto di ricerca Mannheim, pesa proprio la crisi del debito europeo. Da questo lato ci sono degli aggiornamenti importanti, ancora una volta dal lato delle agenzie di rating e poi dai mercati veri e propri. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Allora, cominciamo intanto da quello che sta succedendo sul debito italiano. Molto interventismo da parte delle agenzie di rating negli ultimi giorni. Ricorderete quello che ha fatto Moody's, che venerdì ha deciso di mettere sotto osservazione appunto il rating del debito italiano e poi ieri sera ha messo sotto la lente per un possibile downgrade il rating di Eni, Enel, Finmeccanica, Poste Italiane e Terna, ma anche di 23 enti locali d'Italia. Tutto questo per un possibile declassamento. D'altra parte c'è un'altra agenzia di rating che invece ha fatto sapere che non ha intenzione di cambiare il rating o le prospettive sul merito di credito dell'Italia. Questa è Fitch, che ha fatto sapere che attende riconoscere i dettagli sulla manovra di finanza pubblica da 40 miliardi di euro a fine mese o nella prima parte di luglio, e in questo frangente appunto non cambierà il suo giudizio sul nostro paese. Le borse oggi sono positive, sotto i riflettori anche due importanti aste che si sono tenute questa mattina. La prima, quella spagnola. La Spagna ha venduto sul mercato 3 miliardi di euro di titoli di Stato, ammontare che si colloca sulla parte alta della forchetta indicata dal Tesoro, ma al prezzo di tassi in rialzo. Un'altra asta importante molto attesa è stata quella della Grecia, che ha lanciato un'emissione obbligazionaria da 1 miliardo e 625 milioni di euro a 3 mesi ad un tasso del 4,62% in netto rialzo rispetto al 4% riconosciuto nell'ultima emissione. Tutto questo mentre tra l'altro il Parlamento greco oggi deve votare la sua fiducia al nuovo esecutivo, quindi chiaramente stato di massima attenzione, Simone, però oggi almeno in rimbalzo dopo il forte calo di ieri. Grazie dunque a Deborah Rosciani, che ci parlava del Parlamento greco. Intanto invece il Parlamento europeo a quanto pare non si fida dei governi nazionali e si prepara allo scontro con il Consiglio per inserire nel pacchetto della governance economica un rafforzamento dell'automaticità delle sanzioni per i paesi che non rispettano le indicazioni della Commissione europea in materia di conti pubblici e politica economica. La Commissione parlamentare economico-finanziaria ha deciso di rigettare la posizione ammorbidita espressa ieri dall'Ecofin, che ha proposto di rinviare alla revisione prevista fra 3 anni dell'automatismo appunto delle sanzioni. Siamo alla cronaca con gli aggiornamenti sull'omicidio di Melania Rea. Cambia la posizione di Salvatore Parolisi, non più persona informata sui fatti, ma indagato per l'omicidio volontario della moglie Melania Rea. I magistrati sentiranno il caporalmaggiore in questa nuova veste venerdì prossimo. Tutto si gioca sulla versione dei fatti fornita dal militare sulla giornata del 18 aprile scorso. In quel giorno, racconta Parolisi, lui, la moglie e la figlia si sarebbero recati a Colle San Marco, vicino Ascoli Piceno, per una passeggiata. Melania si sarebbe allontanata e non sarebbe più tornata indietro. Alcune testimonianze però sembrano smentire la presenza della famiglia a Colle San Marco. Intanto i magistrati aspettano le ultime rilevazioni dei RIS e la relazione sull'esame autoptico sul cadavere della donna. Il corpo di Melania Rea fu trovato il 20 aprile, straziato da 30 coltellate. Nei 2 mesi di indagine il marito ha dovuto ammettere di aver tradito la moglie in passato, ma ha sempre negato di averla uccisa. Romolo Napolitano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'intera famiglia è stata sterminata a colpi d'arma da fuoco nel Nisseno. I sicari hanno ucciso una donna di 45 anni, il figlio di 13, il marito cinquantenne. I corpi della madre e del ragazzino sono stati trovati in una casa rurale di Contrada Desusino, a circa 15 km da Gela. L'uomo è stato ucciso mentre era sul trattore che si è ribaltato. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di calcio. Ancora priva dell'allenatore, l'Inter sta vagliando varie possibilità, tra queste l'ipotesi Gasperini, incontrato oggi dai vertici della società, ieri il no di Capello. Lo prendono in giro per l'inglese incerto, lo contestano da mesi per il flop ai mondiali sudafricani e adesso neppure lo lasciano andar via per accomodarsi sulla panchina dell'Inter. Quello inglese doveva essere un paradiso dorato per Fabio Capello, sta invece diventando un confino immalinconito dalle nebbie londinesi. Insieme per forza fino a Euro 2012 ha deciso la Federcalcio inglese, di fronte all'ipotesi di perdere Don Fabio a un anno da quelli che, in teoria, dovrebbero essere gli europei del riscatto per lui e i leoni d'Inghilterra. E allora quel cubo di Rubik che è diventata la panca nerazzurra si scompone ancora una volta in mille pezzi, in mille facce. Niente da fare anche per Gus Hiddink, anche lui alla guida della Turchia fino al 2012. E allora chi resta? I soliti noti: Spalletti, Gasperini, forse ancora Mihajlovic. A meno che Don Fabio, ex milanista e juventino allergico al concetto di fedeltà in nome dell'iperprofessionismo, non regali un colpo a sorpresa. Del resto non fu proprio lui a passare dalla Roma alla Juventus nel giro di una notte? Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto André Villas-Boas, con il quale l'Inter era entrata in trattativa, si avvia a firmare per il Chelsea. Avrebbe già lasciato Porto e sarebbe già stata manifestata l'intenzione di pagare al più presto la clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Una notizia di poco fa che riguarda il mondo della televisione e del giornalismo: Sara Varetto firmerà Sky TG24 a partire dal 4 luglio. Emilio Carelli, che ha fondato Sky TG24 nel 2003 e lo ha guidato in questi 8 anni, torna in video alla conduzione di un talk show quotidiano serale di approfondimento politico che, si legge in un comunicato dell'azienda, rappresenterà lo spazio di maggiore prestigio all'interno del canale All News di Sky. Giovanotti, Raul Bova, Serena Dandini e Alex Britti, la scrittrice Michela Murgia, il campione NBA Marco Bellinelli, il rapper Marrakesh sono gli ospiti della trasmissione che Radio 24 dedica questa sera alla maturità, notte prima degli esami, con Federico Taddia, dalle 21.15 alla mezzanotte. Le 13, 15 minuti e 50 secondi, nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato di politica. Tra poco, tra l'altro, dovrebbe arrivare il voto di fiducia per il governo sul decreto sviluppo. Nel frattempo ci sono le nuove parole di Bossi sui ministeri al nord, che dice facciamo tutto con calma. E poi abbiamo parlato di cronaca, abbiamo parlato di economia con le nuove aste per i buoni del tesoro spagnoli e greci, e abbiamo parlato appunto di cronaca con l'omicidio di Melania Rea. È indagato il marito. Adesso ci occupiamo di liberalizzazioni. E ce ne occupiamo perché oggi c'è stata la relazione annuale dell'antitrust, riforme bloccate, liberalizzazioni sparite dall'agenda politica, così Antonio Catricalà lancia l'allarme sulla situazione economica italiana. Nell'ultimo periodo il processo riformatore si è arrestato, dice, con rischi pesanti per la ripresa economica, e il primo disegno di legge sulla concorrenza non ha mai visto la luce. Catricalà, come si diceva, ha parlato nella sua relazione annuale. Al termine la nostra Alessandra Schepisi lo ha intervistato. Presidente, lei ha sottolineato con molta incisività la necessità di una legge sulla concorrenza, una necessità imprescindibile e inderogabile. La legge sulla concorrenza andrà fatta, ma del resto non è che lo dico solo io, lo dicono le agenzie di rating, lo dice l'Unione Europea. È necessario che ci sia qualche provvedimento legislativo per la crescita, e la concorrenza è crescita. Anche perché dicono i dati di Moody's, i campanelli d'allarme per l'Italia non mancano. Sì, ora io non sono un esperto finanziario, però da quello che capisco, stando ogni giorno a vigilare sui mercati, vedo che è necessaria un'iniezione di competitività, di spirito di concorrenza. È necessario perché altrimenti chi è già su posizioni forti ci si adagia, si cade nell'idea del protezionismo. dobbiamo evitarlo, dobbiamo ritornare a un modello di crescita e di sviluppo sostenibile ma basato su spinte competitive. Per quanto riguarda il referendum sull'acqua, lei ha detto che una vittoria dei sì non può essere intesa come un via libera da parte della politica locale ad occupare definitivamente l'economia con le aziende municipalizzate. Ma diciamo che l'unica riforma vera che aveva fatto questa legislatura era quella dei servizi pubblici locali con l'articolo 23 bis. Io non so fino a che punto c'è stata piena consapevolezza, ma sicuramente ci sarà stata, me lo auguro, nell'elettorato che andando a votare sulla pubblicità dell'acqua poi in realtà si è portato via tutta la liberalizzazione di tutti gli altri servizi pubblici locali. L'acqua non c'entra niente con i trasporti, non c'entra niente con l'illuminazione. Per dirla tutta, noi un po' di delusione l'abbiamo registrata. Però, detto questo, non è che bisogna adesso mettersi a piangere sul latte versato, perché intanto per cominciare le imprese pubbliche devono comunque essere efficienti. Se sono efficienti va tutto bene, se non sono efficienti bisogna privatizzare. Per privatizzare comunque bisogna fare la gara, perché il trattato europeo ce lo impone. Quindi alla fine ciò che è uscito dalla porta rientra da un portone. L'inchiesta sulla cosiddetta P4, le novità. I PM di Napoli ne sono sicuri. La premessa per esercitare il potere, scrivono, è conoscere e avere informazioni. E di informazioni e relazioni è intessuta la rete dell'uomo d'affari Luigi Bisignani, ricostruita nelle carte dell'inchiesta sulla P4. Ci sono i rapporti con la politica, con i vertici di grandi gruppi, a cominciare dall'ENI, col mondo dell'informazione a partire dalla RAI. Chiedevo a Bisignani di parlare con Gianni Letta perché i due avevano un rapporto personale, racconta l'ex direttore. Direttore generale di Viale Mazzini, Mauro Masi, che sentito dai magistrati, cita anche le telefonate ricevute per Monica Setta o Anna La Rosa e racconta di essersi fatto scrivere da Bisignani pure la lettera di licenziamento per Michele Santoro. E proprio perché intercedesse sui vertici della TV, a lui, al potente uomo d'affari, si era rivolto anche Luca Cordero di Montezemolo perché agisse nell'interesse di Edwige Fenech, che produce fiction, spiega lui stesso ai magistrati. E se i rapporti con la RAI, scrivono i PM, costituiscono un momento rilevante nella strategia del gruppo, quelli con i servizi segreti sono una delle più formidabili armi, si legge negli atti, utilizzate per accreditarsi e ottenere vantaggi. Diversi sono gli incontri del parlamentare del PDL, Alfonso Papa, indagato, con i generali Poletti e Santini. E lui, l'ex magistrato divenuto politico, nelle intercettazioni ripete di voler trovare notizie utili per tirare in ballo Caliendo, ossia il sottosegretario alla giustizia di cui avrebbe voluto prendere il posto. Nelle carte di Napoli tornano così anche i nomi dei protagonisti dello scandalo dell'anno scorso sulla P3. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Restiamo a Napoli, ma non per parlare di inchieste, ma della situazione dei rifiuti. Anche il neosindaco di Napoli, Luigi De Magistris, si è dovuto per ora arrendere di fronte a un'emergenza rifiuti che si è aggravata in città e in provincia in proporzioni mai viste finora. Entro oggi, secondo l'ex magistrato, Napoli sarebbe stata ripulita, ma non aveva fatto i conti con le proteste e presunti sabotaggi che di fatto impediscono una soluzione e che anzi hanno messo in ginocchio il capoluogo campano e la provincia. Ed è stata ancora una notte di proteste, blocchi stradali e atti vandalici nei comuni della provincia collegati all'emergenza. Da Cerra questa notte ignoti hanno dato fuoco a due autocompattatori Iveco che gli autisti avevano parcheggiato nella zona Asi in attesa di conferire al termovalorizzatore. Sempre ad Acerra questa mattina cassonetti di traverso e spazzatura incendiata sui binari della stazione, dove sono state anche portate via le barriere di un passaggio a livello. Nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per i roghi di rifiuti sono stati 25 in città, ma soprattutto ci sono stati blocchi stradali utilizzando immondizia sparsa e a volte incendiata sulle carreggiate. I comuni di rifiuti restano in strada e il caldo sta peggiorando una situazione che si fa sempre più critica. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E ora andiamo all'estero per la storia di una bambina pakistana che ha scioccato il mondo. L'immagine che ho delle bambine del Pakistan è simile a quella di tante altre incontrate per strada nelle case del mondo musulmano, degli occhi vivaci che sotto il velo lanciavano uno sguardo rapido, un sorriso curioso allo straniero di passaggio. Adesso sta facendo il giro del mondo la vicenda della bambina pakistana di 9 anni fermata a un posto di blocco nel Khyber con un giubbetto esplosivo. È ovvio cadere nelle reazioni di condanna, ma il mondo dei bambini pakistani e nei paesi stravolti da guerre e violenze non è quello che passa da noi la pubblicità del Mulino Bianco. Non solo milioni di bambini vedono uccidere i loro genitori o fratelli, non solo vengono privati di ogni elementare assistenza sanitaria e della scuola, ma sono preda prestissimo del mondo dei grandi, che li usano, li sfruttano e li degradano. A migliaia diventano bambini soldato con i Kalashnikov in pugno. In Mozambico ne incontrai uno di 8 anni, Sri Lanka, le tigri tamil li reclutavano a 6 per indottrinarli. Il Pakistan è un paese deragliato in una violenza quotidiana assurda. Di certi attentati non diamo neppure più conto sui mass media. Ci siamo assuefatti. Si muore con una facilità incredibile, così come si moriva con le teste mozzate dagli integralisti nella dimenticata Algeria degli anni 90. Forse la cosa più difficile ma più utile non è avere orrore, ma provare a raccontare la storia di questa bambina ai nostri figli. Un pezzo di verità sul vasto mondo per uscire, almeno per un momento, da quello futile ma avvolgente di una levigata civiltà dei consumi. Alberto Negri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo quasi in chiusura, parliamo ora però di musica, di un gruppo storico della musica italiana, il nuovo album dei Nomadi, Cuore Vivo, 3° posto in classifica. È l'esordio del gruppo sul mercato con l'etichetta autogestita Segnali Caotici, un successo di vendita inaspettato se si pensa che il CD contiene 8 rivisitazioni di lati B di 45 giri dal 67 al 77 e soltanto 2 inediti. Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi nel 1963, al microfono di Paolo Panceri, accompagnato da uno degli inediti. Otto canzoni cosiddette del passato, comunque che sono non canzoni di successo del passato, ma sono i cosiddetti lati B, no? E l'estate va via col suo carico di sale e di grano. Quelli che la gente conosce di meno, quelli che praticamente non si ascoltano quasi mai, e noi li abbiamo voluto dare a nuova vita perché ci sembrava giusto farli rinascere. Gli occhi, le mani e soprattutto il pensiero. È una bella soddisfazione perché come primo CD autoprodotto con una nostra etichetta andare al 3° posto, penso che insomma ci debba essere contenti. Toccami il cuore, senti com'è vivo. Sui Colli Euganei, e cambiamo argomento, si chiude un importante restauro gestito dal FAI. Laura Bettini ha raggiunto Marco Magnifico, il direttore del Fondo Ambientale Italiano. Riapre finalmente Villa dei Vescovi a Luvigliano, provincia di Padova. Dal 2005 fa parte del patrimonio del FAI, ma sono stati necessari 6 anni di restauri. Che effetto le fa essere arrivato alla giornata di oggi? Guardi, un significato enorme, perché Villa dei Vescovi è la creazione, è una creazione umanistica creata nel 1530 grazie alla cultura di questo grande dotto veneziano, il nobile Alvise Cornaro, al quale i vescovi di Padova chiesero un luogo dove pensare, dove avere alti pensieri rimirando il paesaggio, e questa è la straordinaria esperienza che il visitatore di Villa Vescovi, che è a pochi chilometri da Abano Terme, avrà. Voi ci mettete forza, caparbietà, chi altro vi sostiene in queste battaglie? Per fortuna molti, da Villa dei Vescovi, dalla Fondazione Cari Padova, per esempio Benetton ha donato il giardino, e poi non le faccio il nome di tutti, e poi soprattutto molti italiani. Il mondo di chi ci aiuta è variegato, ma non è mai sufficiente. Su un restauro di circa 6 milioni di euro, purtroppo manca l'appello ancora 1 milione di euro. Se qualcuno degli ascoltatori che ci ascolta volesse darcelo, beh, noi saremmo molto contenti. Se ne abbiamo uno di chi ha queste disponibilità, che si faccia vivo. che si faccia vivo, e noi lo coglieremo a braccia aperte. O anche 1 milione di italiani che ci danno 1 euro, anzi sarebbe ancora più bello. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, con in regia Valeria Bernardi. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.